Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati ai figli di Enea. In questo periodo abbiamo parlato anche noi spesso di coronavirus, abbiamo parlato delle persone fragili nei nostri radiogiornali come gli anziani o delle persone più a rischio per il loro lavoro come i medici, gli infermieri, il personale sanitario, però se vi voltate una delle categorie più a rischio e di cui meno si parla ce l'avete proprio lì in casa a fianco a voi spesso ed è quella delle badanti, un mondo sommerso di donne per lo più, di straniere. In questo momento sono rinchiuse in casa con i nostri anziani 24 ore su 24, sono un pezzo importantissimo del welfare italiano, un supporto indispensabile per le famiglie. Quello che emerge è che 1.200.000 sono le badanti che lavorano totalmente in nero e che quindi in questo momento non sono coperte lavorativamente perché non possono andare a lavorare, non hanno nessuna giustificazione ufficiale per andare a lavorare. 800.000 sono invece le lavoratrici in regola. Nel momento in cui registriamo questa trasmissione siamo in attesa di un provvedimento governativo che dovrebbe aprire la cassa integrazione in deroga anche per questa categoria, però finora non era una categoria inclusa negli ammortizzatori sociali. Benvenuta e buona serata a Elisabetta. Buonasera. Lei è in Italia da molti anni, è moldava di origine? Sì, sono moldava. E in che area dell'Italia ora vive e lavora? Io adesso sono a Brescia. Una zona molto colpita da coronavirus. Sì. Tra l'altro lei non è stata bene di recente, no? No, non sono stata bene. Alle 6 di marzo io mi sono ammalata, ho avuto il primo giorno di febbre, così per una settimana. Dopo che ho visto, dopo una settimana la situazione ha cominciato a aggravarsi e ho chiamato 118, sono venuti subito. Mi hanno preso tutti i parametri, che pressioni, febbre, tutto qua. E poi mi hanno detto di andare all'ospedale perché la situazione si aggravasse, però io non ho voluto andare all'ospedale perché non volevo lasciare la Elvira, perché la signora dove lavoro. In a Piccata, driving it again, searching for the water, hoping for the rain up and up. Questo è un lavoro di notte, io faccio la compagnia di notte, di giorno io faccio le ore, però non volevo lasciarla comunque perché lei da sola, un'anziana di 97 anni, come lasciarla così in casa da sola? In quel momento lì tutto era chiuso, no? E poi io non sono andata all'ospedale. Ho chiamato il mio medico via WhatsApp, sì. Mi sono curata con il mio medico che è stato bravissimo, molto gentile, ogni giorno mi ha dato lui la cura, mio figlio mi ha portato le medicine e poi anche io ho detto, in questo momento anche la Elvira ha cominciato a avere la febbre, però lei io l'ho curato bene bene, 3-4 giorni ho avuto la febbre e un po' di tosse. Perché il rischio era anche subito. Se lei non ha fatto il tampone, no? No, Elisabetta. Io non ho fatto il tampone, non me l'hanno fatto, non lo faceva nessuno, a quelli che erano gravi. E il rischio era anche di trasmettere alla signora che lei assiste. Ma sì, ma al 100% io ero preoccupata per lei, se per caso io ce l'ho coronavirus, come fa lei a sopportare tutto? Come fa una signora malata, anziana di 97 anni? Ma questa niente, signora è da sola? Sì. Non ha figli, e poi ho chiamato mio medico, ve l'ho detto, e l'ho detto la situazione, mi ha dato la cura e piano piano come anche la Elvira, io ho detto della situazione della Elvira perché in quel momento lì il dottore di Elvira, della mia signora, era stato in pensione, sì, e lei era senza dottore e lui, gentile come era, l'ha guardato anche via scappi a Elvira, mi ha dato la cura per la Elvira, io l'ho curato una settimana, Elvira è uscita bene, però io per 4 settimane con la febbre 38 sempre, la tosse terribile, mal di testa, mal di ossa, ecco così per 3 settimane e mezzo, dai, diciamo, ho sopportato. E poi pensando che sono un mezzo focolaio, ma avevo un'ansia, una paura, una cosa devo fare, avevo paura per i figli, per tutti, mio figlio mi ha portato la spesa, mi ha lasciato giù, io andavo giù tutta con la mascherina, con tutto, e niente, dai. Io da sola con la mia signora abbiamo lottato e alla fine abbiamo vinto. Up and up, say we go get it, get together right now. Gonna get it together somehow. Gonna get it together and fly. Però adesso sono un'ansia, un'ansia di cominciare, ho sentito che i prossimi giorni cominciano a fare gli esami per anticorpi, perché io voglio sapere, sono guarita, non sono guarita, ho avuto questo maledetto virus, o non l'ho avuto, posso lavorare, ho paura ancora o sono ancora infettiva. Ecco, una situazione che non ti fa stare tranquilla, ecco, io voglio essere sicura che io sono una persona sana, posso stare tranquilla, andare al lavoro, io ho paura che sono ancora infettiva, ho paura per i miei figli, per i miei nipoti, ma per tutta che sono intorno a me, vado al lavoro, la signora dove lavoro, ha 2 figli e così via. Tutto io gestisco perché lei ha 97 anni, lei sta tutto il giorno sulla poltrona e basta. Io vengo per un'ora da mezzogiorno, preparo da mangiare, do da mangiare, poi vado per le mie ore, torno alla sera alle 5-6 e sto con lei fino alla mattina. Che rapporto ha con questa signora? Da quanti anni lavora con lei? Io qui lavoro con la Elvira da 8 anni. Un rapporto bellissimo. Sì, abbiamo un rapporto bellissimo. Lei è brava, però ultimamente ho cominciato a peggiorare. Niente, però io non lo lascio fino alla fine. No, non lo lascio perché... È un lavoro anche faticoso psicologicamente. Sì, ma certo, è faticoso. Se mi alza 2 o 3 volte di notte, lei poverina un po' perde la memoria. A questa età, sai, deve aspettare di tutto. Però io finché provo di resistere, finché resisto, vado avanti con la Elvira. Questa signora Elvira ha parenti che si occupano di lei, ha figli, nipoti, sì, fratelli? Sì, Elvira ce l'ha un fratello che viene a trovarla una volta alla settimana, 2 volte, come riesce lui. Lui gestisce tutto. Però non ha figli, immagino. Ce l'ha una figlia, però è una casa di cura, non lo so. Senta Elisabeth, lei diceva che ha anche un figlio qui in Italia. Sì, ce l'ho un figlio qui che abita a Brescia. E che cosa dice suo figlio di questa sua abnegazione, di questo suo sacrificarsi per questa signora anziana? Anche lui si è abituato un po' con la Elvira, sempre viene a trovarla, ridono, scherzano, e qualche volta porta un dolcetto, qualche volta un fiore. Così siamo come una famiglia. Lei è arrivata 8 anni fa o è arrivata prima? Io sono arrivata in Italia 18 anni fa. Sono venuta per lavoro, certo, per lavorare, per aiutare la mia famiglia, perché a casa in quel momento lì c'eravamo tutti in difficoltà, io ero senza lavoro. Come si è trovata in Italia in questi anni? Ma per me l'Italia seconda casa. Quando sempre trovato persone generose o ci sono state anche episodi faticosi? Sempre ho lavorato faticosi con persone generose che mi hanno capito, mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato. Ci fermiamo brevemente, ma torniamo con voi a parlare tra pochissimo. I figli di Enea. Bentornati ai figli di Enea, questa sera parliamo assieme a voi di badanti, di questo esercito di persone, 2 milioni di persone tra persone che lavorano in nero e collaboratrici che lavorano invece in regola. Stavamo parlando con Elisabetta che vive a Brescia, dove accudisce una signora che si chiama Elvira e ha 97 anni. Elisabetta, suo figlio all'inizio stava in Moldavia o stava in Italia? Io ho fatto, quando mio figlio ha compiuto 18 anni, ho fatto ricongiungimento familiare. Quindi è riuscita a portarlo qui. Quindi è stata degli anni lontana da suo figlio? Io sono andata stata lontana da mio figlio per quasi 4 anni. Non sono andata a casa in Moldavia. Come se le ricorda quegli anni di distanza? Ma no, neanche non le voglio ricordare, che mi fa star male. Si immagini qua 3 anni e 8 mesi, non mi ricordo. Non ho visto i miei figli. Lei ha anche altri figli? Ce l'ho anche una figlia a Milano, che è sposata con due figli. Anche lei è riuscita ad arrivare col ricongiungimento familiare? Sì, anche lei, perché in quel momento lì, quando lei è venuta, doveva finire l'università perché si laureava. Si è laureata e poi è venuta in Italia. Lila Bicek, che è una sua amica ed è anche una scrittrice che ha scritto Miei cari figli per Einaudi nel 2013, parlava proprio di questo, del dolore delle badanti in Italia nel lasciare i loro figli per lavorare, per dare i soldi ai figli, per mantenerli. Ah sì. Dopo un anno che sono arrivata in Italia con i debiti, senza lavoro, per i primi periodi, era finché ho trovato qualche ora, sai, però in quel periodo lì è morto mio marito. Sì, si immagini un anno, ho mandato soldi a casa per cura, per medicinale, per tutto, che mia figlia l'ha curato, sono stati bravi i miei figli a casa, da soli, e così. Ecco. E questo coronavirus ha colpito l'Italia in maniera pesante, no? E in Moldavia qual è la situazione da questo punto di vista per il coronavirus? Noi stranieri, piuttosto i moldavi, ma anche lottiamo su 2 fronti, dai, diciamo, sempre in ansia di questa situazione di qui, che come è pesante, ecco. E poi si immagini che da noi in Moldavia è appena cominciato la diffusione. Ecco, sì. E il sistema sanitario in Moldavia da com'è? Da noi gli ospedali non sono come in Italia. Ma da noi non c'è niente proprio, neanche mascherini, neanche i dottori, che dottori tutti hanno immigrato in Europa qua. Ecco, è difficile pensare, ma quelle poverine che sono rimaste a casa senza soldi, senza lavoro, senza niente, e anche con questo virus è una tragedia. Non si dorme di notte, ho lasciato di là tutti i miei parenti, fratelli, nipoti, tutti sempre. Ci sentiamo via internet, come state attenti, sempre le dico cosa fare, come fare. Conosce altre badanti nella sua situazione, oppure persone che hanno magari perso il lavoro o che sono dovute tornare in Moldavia a causa del coronavirus? Che hanno perso il lavoro non conosco persone, però conosco la mia amica che 2 o 3 giorni fa è ricoverata con coronavirus. Si è curata a casa per 2 settimane e poi ha visto che la situazione si è cominciato a aggravarsi e ha chiamato 118 e l'hanno ricoverata, sta all'ospedale, e sono dispiaciuta tanto. E poi un'altra mia vicina di casa che è deceduta da Bologna di coronavirus. Immagini quanta tristezza, quanto. Assistevano degli anziani? Sì, sì, anche la mia amica che è ricoverata 3 giorni fa assisteva un anziano che, però non si sa, lui dopo 3-4 giorni che lei ha cominciato a lavorare, l'hanno ricoverato e poverino purtroppo è andato via. Dopo una settimana si è ammalata lei e così via. È una strage silenziosa, Elisabetta, questa. Ah sì, non ne e parla poi la signora nessuno. da Bologna mi ha detto che ha parlato qualche giorno fa con un'altra mia amica, ma la mia paesana, e dicevo guarda, non lo so, ce l'ho il biglietto per andare a casa per maggio, credevo così, fino a aprile, maggio, però ho paura che mi ammalo anch'io perché mio nonno ha coronavirus. Io sono attenta sempre, faccio quello che... Mio nonno significa il signore che lei assiste. Sì, che lei codiva, che lei lavorava giorno e notte. Dice, ho una paura che non ti immagini. E poi davvero si è ammalata, poverina, e non si è più... È morta, purtroppo. Ecco. Elisabetta, grazie. Capita per il suo racconto. Così. Prego, prego. Up and up, saying, we're gonna get together right now. We're gonna get together somehow. We're gonna get together and fly. Con Antonio Di Crisio, presidente di Io vado a te di Napoli, buonasera. Buonasera a tutti. Qual è la situazione a Napoli? C'è paura da parte delle famiglie di prendere badanti in questo momento, oltretutto non lavorando le persone, molto e non che le familiari si stanno auto-organizzando. Quindi le persone che al momento della chiusura erano senza lavoro sono rimaste senza lavoro in condizioni molto precarie. Quindi molte di loro senza alloggio, con degli alloggi provvisori, senza risorse, ma parliamo proprio anche delle risorse davvero minime, quindi la mancanza proprio di beni primari alimentari, la mancanza di soldi per prendere i mezzi pubblici e spostarsi, quindi è una quantità di persone importante. Oltretutto non tutte sono provviste di documenti, ed è una situazione che è stata tollerata fino alla chiusura, adesso chiaramente con la stretta che c'è stata anche questo è diventato un problema. C'è una rete di solidarietà che è partita proprio tra le sbadanti, per cui ecco, si potrebbe dire i penultimi ci aiutano gli ultimi, quindi si prestano i soldi tra di loro, dividono questi piccoli appartamenti in più persone. Soprattutto il dato che a noi risulta è che una parte di queste badanti stanno cercando di rientrare nei loro paesi di origine, perché in alcuni paesi la situazione è un po' meno grave dell'Italia, e poi sono spinti dalle famiglie. Di che nazionalità sono le badanti che voi contattate per la vostra associazione? Allora, noi diciamo operiamo prevalentemente con persone dell'area comunitaria europea, per cui Romania, Bulgaria, poca Polonia, perché la Polonia, che un tempo è stata una grossa fornitrice di badanti, adesso non lo è più, e alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica, soprattutto quelli in cui ci sono situazioni di guerra, come l'Ucraina, oppure paesi in cui le situazioni economiche sono complicate come la Moldavia, la Georgia, quindi è quella l'area di pertinenza nostra. Ora avremo tante storie da raccontare che queste persone ci narrano, storie davvero fatte di dolore, di lunghi viaggi, traversate nel deserto, in alcuni casi sono vere e proprie storie di schiavitù o autoschiavitù. La nostra funzione è quella anche di mediare con i nuclei familiari, perché a volte diciamo, anche non tutti chiaramente, però a volte da parte di alcuni nuclei familiari non c'è un trattamento adeguato, e quindi noi ci accertiamo che comunque venga garantita a queste persone la dignità minima, sia relazionale sia contrattuale. Ci sono dei casi di ammalati gravi, ammalati psichiatrici, malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson, e situazione meno gestibile, quindi grande riconoscimento a queste persone che di fatto reggono una parte dello stato sociale. Certo, il problema del sommerso è molto grande e in questo momento ammortizzatori non ce ne sono, per cui gli stranieri che possono accedere ai normali ammortizzatori sociali che riguardano anche noi italiani accedono. Il problema sono gli stranieri che noi chiamiamo addirittura non invisibili ma inesistenti, cioè gli stranieri senza documenti e senza neppure il permesso di soggiorno. È una situazione che in qualche modo bisognerà sanare alla riapertura, di cui bisognerà tener conto. Da più parti si chiede ora una sanatoria come quella che viene richiesta per i braccianti agricoli anche nei confronti delle badanti. Allora, sarebbe sicuramente un passo auspicabile. È chiaro che sono soluzioni che riguardano la politica e mi rendo conto che non sono nemmeno difficili, facili da attuare, anche perché non c'è neppure una mappatura precisa di queste persone da capire quanti ne sono e dare uno strumento che permetta a queste persone di emergere senza sentirsi minacciati, perché il problema è anche quello, che chiaramente le persone che non sono in regola hanno anche paura di manifestarsi perché hanno paura di essere rimpatriati o di avere delle conseguenze. La ringrazio, buona serata. Grazie a voi. Grazie a tutti per essere stati in ascolto di questa puntata. Ci sentiamo sabato prossimo sempre sulle frequenze di Radio 24 con nuove storie. Anche questa puntata è stata realizzata in autogestione, per così dire in autoproduzione, quindi vi ringrazio per la vostra pazienza se avete sentito delle imperfezioni e vi auguro una buona serata, una buona Pasqua. Ci risentiamo sabato prossimo da Valentina Furlanetto. È tutto. Ciao.